Allora, come annunciato, siamo riusciti a collegarci con Salonicco e abbiamo questo compagno in ascolto collegato, è un compagno dell'iniziativa di solidarietà, di appoggio alla lotta della Viome. Hola Teo, me escucha? Hola, sì, te escucho bien. Bueno, estamos en directa con Radio Onda Rossa. Y vamos a ver una entrevista con ti para describir la situación de la vuestra iniciativa de solidaridad con la lucha de Viome, sea con la lucha misma de los trabajadores de Viomes. Bueno, sí. A ti la palabra. Saludos. Entonces quieren saber algo en particular. Sí, cómo se pone ustedes en frente a esta lucha y cómo se está en la lucha misma se ha desarrollado. Sí, esta lucha empezó en el mayo de 2011 cuando los propietarios de la fábrica la abandonaron. De hecho, fue una fábrica filial a otra empresa que se quebró. Entonces empiezan los problemas de los trabajadores que se quedan sin sueldos. ¿Quieres traducir ahora? Sí, sí. Insomma, la lotta è iniziata come avevamo un po' già descritto nel 2011 e abbandonata dai padroni e i lavoratori si sono ritrovati senza stipendio e quindi hanno occupato la fábrica. Vale, adelante. Al principio quisieron simplemente luchar por los sueldos que se les debía, pero como hay muchísimas luchas de estas ahora en Grecia por la crisis, sabían que no iban a tener este dinero. Después de un tiempo deciden proceder a la autogestión con algunos referentes que tenían a los ejemplos de autogestión de las fábricas de Argentina. Entonces deciden hacer la autogestión y hacen este anuncio a la sociedad y a los movimientos sociales. Bueno, voy a traducir. Dunque, all'inizio questa occupazione mirava evidentemente al recupero dei soldi non pagati, del salario non pagato, ma ben sapendo però che i lavoratori, insomma, erano coscienti che sarebbe stato difficile perché, data la crisi in Grecia, questo recupero era molto problematico. E quindi nel tempo successivamente cominciarono viceversa a farsi strada queste idee di autogestione, avendo in mente quello che già era successo una decina d'anni fa, grosso modo, in Argentina, nella autogestione delle fabbriche argentina. Bueno, Teo, adelante. Entonces, hace más o menos un año anunciaron a la sociedad que van a proceder a la autogestión. Los partidos políticos y la política oficial ha sido más bien indiferente, hasta hostil a esta propuesta. No obstante, los movimientos sociales han acogido esta propuesta y se ha generado una gran ola de solidaridad, un movimiento enorme a nivel nacional en todas las ciudades de Grecia que han querido apoyar esta lucha para la autogestión. Bueno, voy a traducir. Dunque, di questa decisione dei lavoratori di procedere alla autogestione è stata accolta con ostilità, con indifferenza e quasi con ostilità dalle varie forze politiche. E viceversa ha ricevuto un grande successo, un grande sostegno proprio nei movimenti sociali e nel movimento, insomma, di lotta che si è espresso in Grecia e che tuttora, insomma, viene fortemente sostenuto da questi movimenti. Una pregunta, una specificazione, Teo, per favore. Quando tu habla dell'ostilità de los partidos, no, politico, todo mismo fueron hostiles o indiferentes a esta lucha o hay diferente postura? Hay diferentes posturas, obviamente. últimamente el partido de Syriza, que es la fuerza mayoritaria de la izquierda ahora mismo, se ha pronunciado a favor de la lucha, pero esto ha venido bastante más tarde. Al principio no había un pronunciamiento muy claro. El Partido Comunista ha sido abiertamente hostil y contrario a la autogestión, y todas las fuerzas socialdemócratas o de derecha han sido indiferentes o hostiles. Claro, claro. Bueno, entonces, dunque, la situazione è questa. Insomma, alla mia domanda, ho chiesto a Teo se tutti i partiti avevano mostrato la stesso atteggiamento di ostilità verso questa lotta, e lui mi ha specificato che all'inizio anche la stessa Syriza, che è questo raggruppamento molto forte di sinistra che è arrivata seconda alle ultime elezioni, insomma, all'inizio era indifferente, non si era fatta viva, insomma, solo con successivamente e in questi giorni recentemente, insomma, ha cominciato ad appoggiare questa lotta, ma all'inizio era perlomeno indifferente, mentre il Partito Comunista Greco era decisamente contrario, insomma, non condivideva l'autogestione, e quindi in questo senso si era espresso. Bueno, Teo, che altro más? Credo che si hai algo sulla esperienza de Viome, a nosotros, radio los ascoltadores de Radio Onda Rusa, interesaría mucho entender cómo los alcances políticos entre cual se ha desarrollado esta situación única hasta ahora en Grecia, me parece. O sea, las relaciones que ustedes, los trabajadores, han tenido con los sindicatos, y sobre todo la gran solidaridad que se ha levantado del movimiento sociales. Sí, la lucha por la autogestión empezó hace casi un año, y los trabajadores son gente muy, muy activa y creativa, y han querido desde el primer momento crear contactos y alianzas con amplios sectores de la sociedad, tanto con partidos como con sindicatos, con movimientos o con ciudadanos de a pie. Sí, sí. Bueno, sí, la domanda era, insomma, come si è tutto quanto questa situazione si è andata sviluppando, il contesto più che altro sociale e politico. Questo era l'ambito della domanda che avevo posto a Teo, e lui intanto ha detto, dice, i lavoratori di Viome e credo anche tutti i compagni e compagne dell'iniziativa di solidarietà che è intorno a questa fabbrica hanno avuto molta sensibilità politica nel stabilire alleanze, vaste alleanze, insomma, consensi all'iniziativa che stavano intraprendendo. Adelante, Teo. Entonces, allí empezó una gran campaña a nivel nacional con varios tipos de acciones. Uno de ellos era hacer varias caravanas, viajes por todo Grecia de comités de los trabajadores para buscar alianzas, tanto con sindicatos como con trabajadores de otras empresas que estaban en la misma situación, contactos con partidos políticos, contactos con movimientos sociales. Y también hubo desde el primer momento un contacto con el ministerio, con demandas concretas, que eran, primero, que los trabajadores tuvieran las subvenciones que les pertenecen como trabajadores desocupados, desempleados, y segundo, que el ministerio cambie el marco legal para permitir la autogestión de la fábrica. Bueno, voy a traducir. Allora, questa iniziativa, questa ricerca, insomma, di alleanze e di appoggi si è poi concretizzata attraverso una grossa campagna nazionale che ha avuto anche momenti è riuscita insomma a mettere in atto una carovana itinerante proprio attraverso la Grecia. Da Salonicco infatti sono arrivati fino a Atene, quindi viaggi, iniziative, concerti, e nello stesso tempo i lavoratori si sono attivati presso il Ministero e diciamo in questa carovana i contatti con sindacati, partiti politici sono stati numerosi, e però nello stesso tempo i lavoratori si sono attivati presso il Ministero competente per avere due cose: innanzitutto il sussidio di disoccupazione e poi diciamo la possibilità che gli fosse riconosciuta il cambiamento della proprio della come si dice del marchio di fabbrica, di modo che loro potessero anche formalmente passare all'autogestione. Adelante Teo. La fuerza real de los trabajadores en todo este tiempo ha sido el enorme movimiento de solidaridad que también ha organizado el sustento material de los trabajadores. Entonces ha organizado recolección de comida y de dinero para apoyo a las familias de los trabajadores para que sobrevivan mientras libran esta lucha. Después, cuando los trabajadores se dieron cuenta que el ministerio no está dispuesto a facilitar esta lucha, decidieron a proceder a la autogestión sin esperar a tener las condiciones que el ministerio quería prometer, sin esperar las subvenciones o el cambio del marco legal. Bueno, voy a traducir. Allora, diciamo, le cose da porre rilievo sono due durante questo percorso dello sviluppo. Uno, l'enorme solidarietà proprio riscontrata in tutta la Grecia intorno a questa lotta, intorno a questi lavoratori e alle loro famiglie, che ha consentito di raccogliere fondi in denaro, insomma aiuti in denaro, ma anche donazioni in cibo, in alimenti, insomma proprio per come sostegno materiale alle famiglie. L'altra cosa è che a un certo punto i lavoratori hanno deciso, visto che il ministero di fronte alle loro richieste non si faceva avanti, non faceva sapere niente, hanno deciso di non aspettare più e di passare loro stessi all'autogestione della fabbrica. Bueno, esto me parece claro como situación, ¿no? Por cuanto riguarda la relación con los sindacatos, sobre todo con el PAME, que es lo sindacato de sinistra, ¿no? De izquierda, legado al KKE, al Partido Comunista Griego. ¿Cómo sí. se ha puesto? Tú me dijiste que con el Partido Comunista Griego la relación no fue buena, ¿no? Frente al asunto de la autogestión. ¿Lo mismo se acabó con los sindicatos del PAME o la cosa fue diferente? El sindicato de PAME no ha apoyado, no solo no ha apoyado la iniciativa, sino se ha puesto en contra de la iniciativa desde el primer momento y ha intentado obstaculizar el proceso, porque su crítica fue doble. La primera crítica fue que realmente la gestión no existe y lo único que hacen es hacerse pequeños capitalistas, los propios trabajadores. Entonces dicen que la autogestión de una fábrica no es nada revolucionario, sino son los sueños de pequeña burguesía que podrían tener los trabajadores. Entonces muestran una incapacidad de comprender qué significa autogestión y por eso no pueden apoyar esta lucha. La segunda crítica fue que este experimento estaba condenado a fracasar porque las condiciones del mercado capitalista lo excluirían del mercado. Y decían, dicen todavía que se necesita un capitalista para operar la fábrica y los trabajadores no lo pueden hacer ellos mismos, están condenados a fracasar. Bueno, voy a traducir, muy interesante esto, Teo. La domanda che io ho fatto a Teo era che tipo di relazioni c'erano state con i sindacati, in particolare con il PAME, che è il sindacato di sinistra legato al Partito Comunista, che, come ci ha detto precedentemente, già si era espresso in modo contrario, ostile, insomma, ha usato proprio questo termine a questo percorso di autogestione. E la risposta del PAME è stata la stessa, anzi forse anche più specifica, nel senso che il PAME, il sindacato appunto di sinistra legato al Partito Comunista Greco, ha detto che questa l'autogestione, questa esperienza di autogestione è comunque una esperienza di lavoratori che vogliono diventare piccolo borghesi, che alla fine insomma si rivela come un tentativo, come un atteggiamento piccolo borghese in seno ai lavoratori che vogliono gestire una fabbrica, quindi con un fortissimo contenuto ideologico, molto poco pragmatico e molto poco solidale, direi, anzi con una sorta di condanna ideologica, no? Inquadrando questo tipo di lotta in una concezione piccolo borghese, e dall'altra sostenendo che siccome si è in una situazione di mercato, questa lotta sul piano pratico, l'autogestione sul piano pratico, sarebbe stata condannata al fallimento, perché nelle condizioni di mercato ci vogliono i capitali, e quindi l'atteggiamento, il punto di vista del PAME era quello, dice, bisogna trovare un padrone che ci mette i soldi. Questo è una cosa. Bueno, è intendito, molto interessante, Teo. Adelante, si hai algo su este tema. Entonces, fue una paradoja que la fuerza que se autoproclama revolucionaria no pudiera entender que el proceso de autogestión no se trata de hacerse capitalista, sino de control colectivo y social de la producción. Pero todavía no existe este vocabulario en dentro de la izquierda tradicional. Entonces los trabajadores se apoyaron puramente a la solidaridad de los colectivos que trabajan ya, que trabajaban desde antes para la autogestión, para el control social y para la economía social y solidaria. Estos son los colectivos que han apoyado más la lucha. Y ahora el Biomé es parte de un amplio de una amplia red de colectivos similares. Bueno, ¿estos colectivos son solamente en el territorio de Tesalónica o hay en toda Grecia? Está en toda Grecia. En toda Grecia. Y ahora mismo la economía social y solidaria es algo que se multiplica y crece cada día. Es el movimiento de economía social y solidaria que crece con mayor ritmo en toda Europa ahora mismo. Hay miles de experimentos de cooperativas, de productivas, de cooperativas de consumo, de centros comunitarios, de centros sociales, de redes de intercambio sin dinero. Todo esto es algo que ahora mismo está creciendo muchísimo en Grecia. Bueno, voy a traducir. E dunque la domanda, anche cioè altre cose che ci diceva Teo rispetto a questo appunto, verificata questa situazione con i sindacati e quindi con l'ostilità del PAME, figuriamoci gli altri, insomma gli altri poi sono veramente poco rappresentativi su questo tipo di lotta, i lavoratori hanno decisamente abbracciato la causa della autogestione e soprattutto hanno abbracciato come loro alleati, come compagni di strada, proprio tutto l'ambito di quello che sono i collettivi sociali impegnati nel sociale nei vari movimenti in Grecia, che rappresentano proprio una grossa rete di, ci dice Teo, di economia sociale solidaria, insomma economia sociale nel campo e solidale, sociale e solidale nello stesso tempo, che secondo quanto dice insomma è abbastanza diffusa in Grecia ed è costituita, oltre che da esperienze non proprio di autogestione come questa dell'OIE, ma comunque esperienze di tipo cooperativistico, dedicate insomma all'interscambio anche di beni diretti, con una sorta di baratto, potremmo dire, non solo interscambio in denaro, ma in beni di consumo a fronte di prestazioni o altri beni di consumo. Entonces, Teo, esta economía social solidaria, come la llama usted, está precisamente como se presenta como una alternativa política también a lo que es correntemente lo escenario de la sinistra parlamentaria. Sí, ahora mismo es una fuerza enorme en Grecia que está intentando construir un mundo distinto desde abajo. Es una alternativa clara a la política de la izquierda tradicional, que está intentando cambiar el mundo a través de la toma del poder del Estado. Los movimientos de economía social solidaria y en general el movimiento por la autogestión y el control social, que es un movimiento más amplio, está intentando ahora mismo generar nuevos valores sociales y nuevo tipo de personas, nuevo tipo de sujetos que puedan salir de las relaciones capitalistas. Bueno, sí, yo he chiesto si esta red questa rete grande di economia sociale solidaria, insomma, che è appunto impegnata sia nel tema dello sviluppo sociale solidale e anche nel controllo sociale della produzione, diciamo così, quindi toccando due temi specifici degli aspetti capitalistici, in effetti si presenta come un'alternativa politica rispetto a quello che è soprattutto la sinistra istituzionale che c'è in Grecia, no? Sia del Partito Comunista sia di Syriza, e sta proprio questa, ci dice Teo, questa rete di economia sociale e solidale, sta cercando proprio di sviluppare dal basso una nuovi valori sociali, così li ha chiamati, e anche nuove persone. Noi in Italia siamo magari, come lessico e come categoria, siamo storicamente abituati a vederla o a intravederla nella formazione dell'uomo nuovo, no? Grascianamente espresso da Gramsci, eccetera. Ecco, questa nascita dell'uomo nuovo, del nuovo individuo che cresce dentro la società capitalista con altri valori diversi e antagonisti. Muy interesante, Teo, también este asunto. Sí, dime. Dentro del movimiento de solidaridad hay fuerzas de la izquierda, especialmente la izquierda que se preocupa por la gestión obrera, y también partes del movimiento anarcosindicalista y antiautoritario. Son una parte bastante fuerte del movimiento de solidaridad. Sí, dime una especificación. Cuando tú hablas de fuerza de izquierda, aquí en Italia, por ejemplo, estamos acostumbrados a hablar de autoorganización. No sé si es lo mismo en Grecia. ¿Qué quieres decir? Bueno, hablo de fuerzas. ¿Quieres decir si hablo de fuerzas parlamentarias o no? No, de fuerza parlamentaria. Seguramente de fuerza extraparlamentaria. Tú nombraste fuerza de izquierda presente en este movimiento social y también de sector anarco-sindicalista. Insomma, todo esto se puede reasumir en el tema de la autoorganización para abajo de los trabajadores. Sí. Sí. Es una parte de la izquierda que está preocupada por la organización desde abajo y no con la toma del poder estatal. Entonces hay una parte de izquierda que está enterada por un proceso de abajo. Sí, sí. Siempre la ha habido. Hay un movimiento anarquista fuerte que tiene mucha influencia en Grecia, también movimiento anarcosindicalista, y muchas partes de la izquierda más marxista también se preocupan por la autoorganización social. Entonces es un movimiento muy diverso, muy amplio, que ha hecho una gran alianza alrededor del tema de Biomed. Bueno, entonces voy a traducir. Ecco, questo comincia a essere una puntualizzazione, diciamo, nel panorama generale, greco, abbastanza importante, perché Teo ci dice che in effetti c'è una, ci sono forze di sinistra marxiste e forze anarco-sindacaliste, insomma, del movimento anarco-sindacalista ne eravamo a conoscenza, meno, diciamo, sicuri, per quanto così notizie più o meno generiche ne avevamo trovato, della presenza di forze di sinistra marxiste di base, cioè non legate a una politica parlamentare di presa del potere attraverso le elezioni, attraverso le istituzioni, ma di forze marxiste che puntano, appunto, credono in un discorso di auto-organizzazione dal basso, insieme a queste componenti presenti, forti, consistenti del movimento anarchico. Muy bien, Teo. Entonces, io podemos una digamos así, una pregunta sobre sobre la perspectiva de esta lucha, ¿no? ¿Qué hay en la agenda en los próximos días o meses que se propone de hacer, no solamente los trabajadores, porque los trabajadores, pienso, hay que preocuparse del trabajo de la fábrica, del funcionamiento de la fábrica, que hay, sobre todo en el tema político, desde el punto de vista, en el sentido muy grande que tiene la lucha de Biome. La lucha de Biome es una lucha única en el sentido de que no hay más ejemplos de autogestión industrial en Grecia y tampoco en Europa en el último tiempo. Entonces, esperamos y luchamos para que esto se generalice y que Biome sea un precedente, que sea el primer ejemplo en una larga serie de empresas que están esperando para hacer la autogestión, ya que muchísimas empresas están en quiebra en Grecia y los trabajadores están en la calle. Claro. Por eso seguimos intentando hacer alianzas con todo el que quiera ayudar en esta lucha. Por ejemplo, ayer el partido de Syriza, que es una fuerza mayoritaria de la izquierda, declaró su solidaridad. El presidente del partido fue a visitar la fábrica y declaró que va a proponer una nueva ley que ampare este experimento. Pero la lucha es más amplia que la parlamentaria, porque una gran parte de la repercusión política dependerá de la repercusión económica de la empresa. Entonces, la empresa solo podrá ser un ejemplo y un precedente si tiene éxito económico y si consigue mantener sus trabajadores, ¿no? Sí, bien. Bueno, voy a traducir. Allora, sulle prospettive della lotta e del movimento che sostiene questa lotta della Biome, Teo ci dice: intanto, come obiettivo concreto si punta a una generalizzazione di questa forma di lotta, insomma, quindi dell'autogestione. Quindi, data la situazione di estrema crisi delle fabbriche greche, il tentativo, e per cui ce ne sono molte altre nelle stesse o simili condizioni alla Biome, e il tentativo e quindi l'indicazione è proprio quella di generalizzarla al massimo. Dall'altro, questa, diciamo, attenzione all'alleanza, allargare la sfera di influenza, di simpatia, di solidarietà intorno a questa lotta ha fatto sì che Syriza, come ci diceva all'inizio, si è fatta avanti in tempi recenti, è venuta anche lì, insomma, come si fa normalmente, il presidente locale del partito è venuto a visitare la fabbrica e comunque sembra abbiano all'ordine del giorno di presentare in Parlamento una legge che ratifichi questo discorso dell'autogestione, questa possibilità della gestione da parte dei lavoratori. Ma comunque Teo dice, a parte questo, per noi l'importante è mantenere, insomma, questo discorso dell'autogestione, auto-organizzazione dal basso. Bueno, Teo, no sé si hai algo de algo más de decir. Sobre Sí, dime. Sobre la lucha económica, esta vez sobre la lucha porque este experimento sea exitoso, hay una idea de parte de los trabajadores de diversificar la producción, producir nuevos productos que sean ecológicos, con sustancias no tóxicas y que puedan distribuir a través de la gran red de economía social y solidaria, tanto en Grecia como en el extranjero. Entonces este será probablemente el primer producto de gran difusión de Biomé. Entonces esperamos también construir una gran red de solidaridad en el extranjero y poder distribuir los productos también hacia el extranjero. Bueno, allora l'ulteriore precisazione che ci veniva fatta adesso è che l'obiettivo dei lavoratori che hanno in autogestione la fabbrica è quello di diversificare la produzione, puntando all'introduzione di tecnologie, diciamo più che altro di prodotti ecologici, quindi a produrre, a dare vita a una produzione di prodotti ecologici, quindi a basso impatto ambientale o comunque non inquinanti. Siamo nel settore dell'edilizia, quindi possiamo immaginare di che tipo di prodotti si tratta, che a loro volta possano essere distribuiti attraverso non il mercato capitalista, o perlomeno non solamente, ma puntando principalmente alla loro distribuzione nel mercato della rete sociale e solidale. Bueno, Teo, algo más, si no hay algo, io tengo una pregunta final para ti, si puede. Claro, sí. Sí. Bueno, la pregunta es esta, ¿no? Aquí hay en Italia, bueno, como tú sabes, tenemos una situación non parecida, non igual a la Grecia, ma insomma parecida. Sí. General, pero en este momento, por lo que se refiere a la Grecia, hay rumores de involución autoritaria, de presencia de fuerza especial por la necesidad de defender el Parlamento. Hay rumores de policía. Que tiene o ejército también que podría ser algo parecido al Politécnico del 1973. Sí. ¿Cómo usted pues qué dice usted frente a esto? ¿Qué hay de decir? En Grecia ahora mismo se está llevando a cabo la reestructuración neoliberal de la economía más brutal y brusca de la historia de la humanidad. Nunca en tan poco tiempo se ha atacado tanto a una población de manera económica, fuera de condiciones de guerra, hablamos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, esta ofensiva neoliberal, la única manera de imponerla es... Hello? Per una nuova chiamata selezionare 1. Per ricollegarsi con lo stesso numero selezionare 2. Per utilizzare. Bene, purtroppo la comunicazione si è interrotta, anche se eravamo verso la fine dell'intervista, un'intervista abbastanza lunga, ma d'altra parte quando si deve parlare e tradurre nello stesso tempo i tempi necessariamente si raddoppiano. L'ultima domanda che gli avevo fatto, a cui Teo stava rispondendo prima dell'interruzione, era una valutazione sul stato generale della situazione greca, e cioè se voci, piccole voci che magari circolano anche in Italia, di presenza di truppe, addirittura mercenarie, di squadre particolari di vigilanza privata che sarebbero state ingaggiate in Grecia per difendere il Parlamento, le istituzioni, quindi con un compito che normalmente sarebbe dovuto essere delle forze di polizia normali, e che questo lasciava in qualche modo, secondo alcuni commentatori, lasciava pensare che le stesse istituzioni greche, nonostante ci sia tra l'altro un governo di centrodestra, insomma, no, governato da Nea Democrazia, non si fidano a sufficienza delle stesse forze di polizia o dell'esercito, al punto che avrebbero ingaggiato come difesa di loro stessi, del governo, delle istituzioni, diciamo così, addirittura dei contractor privati. Questo, se confermato, insomma, dà un senso, darebbe un senso particolare allo stato delle contrasti, anche delle contraddizioni interne al governo e alle istituzioni greche, insomma, no? La Grecia è sempre un paese europeo che ha avuto un colpo di stato nel 1967, non va mai dimenticato, insomma, quindi in tempi recenti, diciamo così, anche se sono passati 50 anni, non parliamo di tempi così lontani. Quindi questa preoccupazione evidentemente c'è sempre, però insomma, ecco, la risposta non l'abbiamo potuta sentire perché la comunicazione si è interrotta, e quindi chiudiamo qui questa corrispondenza con la